America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Voglio cominciare oggi una serie di puntate dedicate a un confronto fra un critico di musica classica americano, Anthony Tomasini, che è il critico del New York Times, e il nostro grande vecchio amico Armando Torno. Perché questo esercizio? Perché Tomasini ha pubblicato nei giorni scorsi un lungo articolo in cui ha fatto una classifica di quelli che secondo lui sono i 10 più importanti compositori della storia. Anthony Tomasini, voglio dire, un personaggio ovviamente conosciutissimo a New York, anche a livello internazionale, non frequenta mai musicisti per non lasciarsi influenzare dal conoscere una persona nelle sue critiche. Ha scritto vari libri, è anche un pianista. Ma veniamo ai compositori che lui ha scelto, e faremo poi un confronto appunto con Armando Torno per vedere se approva e qual è il suo punto di vista sulle motivazioni di Tomasini e sui compositori. Allora, cominciamo con questa classifica. Al primo posto, in assoluto, nella storia dei compositori, Tomasini pone Johann Sebastian Bach. Questa è la giustificazione che dà Tomasini per la sua ineguagliabile ingegneria musicale e profondità espressiva. Era considerato un po' vecchio stile ai suoi tempi, però nella sua magnifica arte della fuga, rimasta incompleta perché poi morì, Bach riduce, dice, la complessità della musica all'essenza, senza neppure indicare lo strumento o gli strumenti per i quali l'opera era stata composta. In questo senso si può dire che fosse moderno nelle sue opere chiave, la fantasia cromatica e la fuga. Bach anticipa il fervore della rapsodia romantica di Liszt e perfino di Rachmaninoff. Sentiamo l'arte della fuga. Abbiamo Armando Torno ai microfoni di America 24. Armando, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora Armando, Tomasini ha fatto questa classifica. Io ero curioso di sapere se tu condividi. Al numero uno mette dei compositori più importanti della storia Bach, e al numero due Beethoven. Sì, non si può essere che d'accordo su Bach, direi che le discussioni sono quasi inutili. Su Beethoven si possono aprire magari delle altre scelte, ma indubbiamente rimane uno dei giganti, uno dei punti di riferimento. Beethoven in fondo non solo apre e dà senso alla modernità, ma spiega la contemporaneità. E Bach in fondo è il musicista che ha dialogato con Dio, tanto più che una vecchia battuta diceva: è indeciso se Dio abbia dato a Bach più di quanto Bach abbia dato qualcosa a Dio. Non dimentichiamoci comunque che Bach muore nel 1750 e per un buon settantennio, direi, viene quasi dimenticato, anche se ovviamente gli specialisti lo conoscono, i musicisti l'hanno caro, le sue diciamo sonate del clavicembalo ben temperato sono considerate un po' l'Antico Testamento della musica, sui quali è basata qualsiasi forma, qualsiasi speculazione, qualsiasi ragionamento. Quando noi ci chiediamo qual è il motivo, qual è l'origine, qual è il senso della musica, se la musica è una via che cerca Dio oppure una via che vuole in qualche modo spiegare l'uomo, ecco, Bach queste vie le ha battute tutte. We'll be right back. Ecco, dopo Bach al secondo posto Tommasini è molto incerto tra Beethoven e Mozart e poi sceglie Beethoven e fa questa osservazione, cioè si può dire che per Beethoven la composizione di un'opera era una specie di lotta e questo è evidente ascoltando la sua musica, ma sebbene lavorati con fatica i lavori di Beethoven sono così audaci e indistruttibili che sopravvivono anche a cattive performance. Ricorda Tommasini un episodio in cui c'era un pessimo interprete, insomma un musicista che non era molto bravo ma che pur essendo un po' un cane alla fine grazie a questa straordinaria musica vinceva la musica contro la non genialità del musicista e sembra ingiusto quasi che abbia questo secondo posto. Ma direi di no, perché in fondo Beethoven è un figlio di Bach. Beethoven ha scritto con le sue 32 sonate in fondo il Nuovo Testamento della musica, viene dopo, è un fratello minore. Se dovessimo usare, diciamo così, queste immagini bibliche per dare il primo e il secondo posto, giustamente Bach è l'Antico Testamento e Beethoven è il Nuovo, ecco. È una rivelazione indubbiamente, ma è una rivelazione che ha bisogno del Vecchio Testamento, ha bisogno della Torah, ha bisogno del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, per usare un'immagine biblica. Non dimentichiamo che Beethoven ha tutta la disperazione dell'uomo moderno. Beethoven è un uomo sordo alla fine della vita, la nona sinfonia, l'ultima che compone, la compone in uno stato di sordità, lui stesso vuole dirigerla ma tutti sanno che non ci sente, sarà il primo violino a condurre in porto un po' questa terribile impresa e Beethoven stesso ha una sofferenza terribile proprio in questa perdita dell'udito, è come se un pittore perdesse la vista, è come se un cantante perdesse la parola, ecco. E Beethoven comunque nella nona sinfonia costruisce in fondo quello che il chiamiamolo così il grande enigma della modernità, è una musica che noi possiamo attraverso le grandi direzioni di Toscanini, se vogliamo di Karajan, per molti aspetti di Furtwängler o per altri, poi non dimentichiamoci anche Bruno Walter e altri che hanno diretto la nona sinfonia, hanno indubbiamente contribuito a limare, a rendere gradevoli i punti di passaggio. Tuttavia la nona sinfonia è qualcosa di accecante, perché sono dei blocchi sonori che sembrano degli iceberg collegati da sottili ponticelli, cioè sono l'opera mentale di un sordo che in qualche modo è stata compiuta mentalmente, eseguita mentalmente, ed è una delle costruzioni forse più inquietanti di tutta la storia della musica. Quindi quando l'ascoltatore sente questa armonia, sente questa disperazione, sente questi timpani, sente queste cadenze celestiali, non si deve dimenticare che quell'uomo era sordo, ha immaginato tutto e ha costruito questo paradiso infinito nel quale far abitare i suoi silenzi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. E visto che siamo in odore di musica classica, di classifica dei più grandi compositori di tutti i tempi, restiamo a un legame fra musica classica e compositori e musicisti del nostro tempo. Abbiamo identificato una serie di pezzi molto interessanti. Cominciamo, visto che Bach ha vinto la classifica, con il suo Bourrée nell'interpretazione dei Jethro Tull. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.